nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Se soffrissi di mal di testa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il sabato dovrei avere proprio un peso, una specie di esplosione, implosione che preme sulla mia testa. Per fortuna io non soffro di mal di testa in genere. Per tutte le notizie, tutti i fatti che io raccolgo durante la settimana, oltre alle mille altre cose naturalmente che faccio, e che sono pronta con voi a discutere poi il sabato, e cerco di fare pochi istanti prima che inizi la diretta una specie di ricognizione. E, avete presente quando scappano da una pentola che sta bollendo le bollicine, l'acqua? È una cosa incredibile, quindi cerco di raccogliere il tutto e chiedo come sempre anche, diciamo, una mano a voi per ritornare sui fatti della settimana, riuscire a raccontare tante cose. 800 24 00 24 è il numero verde, numero sempre a vostra disposizione, nonché, come vi dico sempre, il numero ecologico, perché evita di disperdere inutilmente nell'ambiente le vostre energie, le vostre riflessioni, le vostre idee, le vostre opinioni, per convogliarle tutte qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Quindi 800 24 00 24. Tra poco il nostro opinionista estemporaneo, ve lo presenterò oggi, saprete chi è tra pochi istanti, però come sempre voglio anche di tutte queste notizie, questa infinità, questa massa di fatti, vorrei come sempre farvi un po' un riassunto molto breve. Le Olimpiadi, lo sappiamo tutti, sono in corso le Olimpiadi, partite ieri ufficialmente, anche se bisogna dire, questo mi ha fatto piacere, nel nostro tempo dispiacere, già da qualche giorno erano partite in modo ufficioso con il calcio femminile, un sacco di partite di calcio femminile con Giappone e Stati Uniti come sempre in testa, che sono le migliori per il calcio femminile come nazioni. Se ne è parlato pochissimo e poi è stato, appunto, non ho capito perché l'inizio ufficioso, allora tanto voleva farle partire da lì, vabbè, oppure farle partire ieri dopo la oggi dopo la cerimonia di ieri, che è stata particolare, non so se l'avete vista, con la regina Elisabetta che ha interpretato se stessa, un po' una Bond girl con 007, e poi poco dopo Mr. Bean, una coppiata favolosa. Quindi le Olimpiadi. Poi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni devo dire che tra i campioni preferiti c'è una campionessa che è Valentina Vezzali, che è stata anche la portabandiera ieri dell'Italia. Questo mi fa piacere. Anche qualcuno però la criticava, diceva: ma non era quella che una volta da Vespa aveva detto a Berlusconi, quando era ancora presidente del Consiglio: da lei mi farei toccare volentieri. Il toccare, no? Un termine tecnico nella scherma, un po' doppio senso, diciamo, in quelli, ma insomma, mi sembra che si meriti comunque il suo ruolo, Valentina Vezzali. Poi parliamo di crisi, ovviamente. Squinzi, presidente di Confindustria, dice: siamo nella tempesta. Ma è intervenuto Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, che sembra un tocco magico, questi mari. Si potrebbe dire l'importanza di chiamarsi Mario di questi tempi. E poi anche Parigi e Berlino hanno detto: anche noi saremo con Draghi, con l'Italia e con la Banca Centrale Europea, faremo di tutto per salvare l'euro. La crisi spagnola, insomma, la Spagna è veramente versa in pessime condizioni, speriamo che ce la faccia. Sapete poi che è scomparso il consigliere giuridico di Napolitano, è morto di infarto improvvisamente in questi giorni, Loris D'Ambrosio, con tutta la scia di polemiche che c'è stata dietro, perché era uno dei protagonisti di queste intercettazioni sulla presunta trattativa Stato-mafia, no? Sembra che parlasse appunto con l'ex ministro Mancino. Poi l'avviso di garanzia per Formigoni, che è arrivato ufficialmente al presidente della regione Lombardia, che è accusato di corruzione con l'aggravante internazionale per aver favorito enti privati, aziende private, poi aver avuto questi rapporti avvicinati, diciamo così, col faccendiere d'acco. Tutto naturalmente ancora da verificare, però insomma, ci sono carte abbastanza importanti. È, diciamo, la settimana dei presidenti di regione, perché anche il presidente di regione della Puglia, Vendola, è stato indagato per concorso in abuso d'ufficio per aver favorito l'assunzione di un primario nella sanità pugliese. E c'è sempre la Sicilia a rischio default, si capisce, fallisce, non fallisce, era una bufala, boh. In ogni caso, Monti ha convinto il presidente di regione lombardo a dimettersi entro il 31 luglio. Oggi quanto ne abbiamo? 28, vediamo, insomma, se entro tre giorni. E poi questa questione caldissima dell'Ilva, dello stabilimento siderurgico che è uno dei più grandi d'Europa, se non il più grande, anzi d'Europa, di Taranto, che è stato posto sotto sequestro in questi giorni dalla procura della città, perché da anni si sa, insomma, che emette gas e polveri tossici tossiche nell'ambiente, e la GIP della procura ha detto proprio semina malattie e morte nell'ambiente tra le persone, quindi non potevamo fare altrimenti. Però poi ci sono di mezzo i lavoratori, le loro famiglie, quindi città bloccata dalle proteste, ricominceranno nei prossimi giorni. Sapete invece che a Milano è saltata l'area C, cioè quest'area dove per entrare bisognava pagare un ticket. Perché è saltata? Perché il Consiglio di Stato ha detto, dietro richiesta esposto di un parcheggio privato al centro della città, che questo lo danneggiava, questa decisione dell'area C, e quindi adesso bisognerà decidere se può ripartire quest'area C o no. Cosa ne pensate, per esempio, di questo? Può un parcheggio privato fermare una delibera comunale? 800 24 00 24. Un'altra novità di Milano è che sono state approvate le unioni civili. Pisapia, dice il sindaco, però non è un ingresso al matrimonio gay, semplicemente ritenevamo di in questo modo dare delle garanzie alle coppie di fatto, che siano eterosessuali o omosessuali. L'intervista shock a Gelli, il venerabile Gelli, e a Fioravanti sulla strage di Bologna. Gelli che dice è stato un mozzicone di sigaretta il 2 agosto 1980 a fare tutti quei morti, 85 morti e più di 200 feriti. E poi Fioravanti che dice in fondo il presidente dell'associazione delle vittime ha solo perso una suocera. Io però direi di seppellirli nell'indifferenza e nella dimenticanza, vogliamo seppellirli in questo modo. Bene. Poi Green Hill, diamo quest'ultima notizia, vorrei darvi questa azienda che allevava beagle, questi cani molto simpatici, per la vivisezione. Ora, al di là di entrare nell'argomento giusto o non è giusto la vivisezione, applicarla alla scienza eccetera eccetera, però pare che veramente li maltrattassero. Sono stati scoperti 100 beagle in un congelatore, morti naturalmente, e adesso li stanno adottando. È bellissima questa cosa, non so se avete visto i musi dei cucciolini dappertutto, sui giornali, in televisione, nei siti, è una cosa irresistibile. Ecco, se potessi me li prenderei tutti. Ma quindi queste sono le notizie della settimana. 800 24 00 24. Come sempre anche questa settimana vi devo dire che cos'è che conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Volete cambiare sesso? Andate a Belgrado. Fino a qualche tempo fa c'era Casablanca, per anni Casablanca in Marocco è stata la capitale del cambio del sesso per le operazioni chirurgiche, per chi da donna voleva diventare uomo, da uomo voleva diventare donna. Invece, da qualche tempo, pare che Belgrado in Serbia sia diventata la capitale mondiale assoluta, e vengono lo racconta il New York Times questa settimana, vengono da tutto il mondo, dalla Francia, dalla Russia, dagli Stati Uniti, da Sudafrica, da Singapore, dall'Australia. Perché, vi chiederete voi, naturalmente c'è sempre di mezzo il prezzo, pare che siano prezzi molto bassi, molto abbordabili. E poi per esempio negli Stati Uniti solo il 5% dei chirurghi effettua questo tipo di intervento, invece lì sono specializzatissimi, quindi se vi saltasse in mente, ecco, la Serbia può essere una buona meta. E invece c'è qualcos'altro che ci conferma purtroppo che ci sono sempre le mezze stagioni, che le cose continuano lineari così. Anche questa settimana due, mi pare, se non tre donne uccise, di cui una dal suo ex, ma tutte sempre sono ex mariti, ex fidanzati, mariti o fidanzati eccetera. Lei lo aveva denunciato già diverse volte, però finché non scappa la morte evidentemente, e questo ci dà proprio una sicurezza, nel senso che le cose rimangono così. Abbiamo le nostre poche certezze, ma quelle rimangono. Direi a questo punto di presentare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Fabrizio Rondolino. Fabrizio? Buongiorno. Ah no, pensavo ti fossi addormentato, scusa, magari la pennichella a quest'ora ci sta, no? No. Che no. Dici? Mi sarei comunque svegliato per il tuo... con sveglia bomba orologeria. Fabrizio caro, senti, tu stai bene? Sì. Siamo a casa? Sotto controllo, siamo a casa. Lo posso dire? Che cosa? In questi giorni cercavo Fabrizio, cerca, ricerca. Alla fine mi fa, guarda, posso dirlo? No. Ma sì, dillo, sono un vecchio rottame. Sono un vecchio rottame, sono in ospedale. Come in ospedale, Fabrizio? Tu devi assolutamente essere in trasmissione, in collegamento. Ma sono qui, c'ho due vertebre che sono partite, un'altra del collo che se n'è andata, la stanno cercando, eccetera, eccetera. Invece, vabbè, eroicamente. Quindi, era soltanto un'ernia, però dolorosa. Dolorosa, sono cose dolorose. Ed è la malattia di noi ciccioni sedentari, non c'è niente. No, caro, e invece no. Guarda, era una convinzione, era una convinzione anche mia. Io, per esempio, sono una sportivissima, piuttosto in forma, e ho avuto una protusione che non è proprio l'ernia, una cosa simile, ma conosco un sacco di persone magre, proprio all'osso, fatte solo di muscoli, che non sai quante ernie hanno avuto in vita loro, è una cosa incredibile. Quindi confortati su questo. Tra l'altro, questo mi conforta. Dimmi. Tra l'altro, aspetta che la vado a recuperare, c'ho qui una ricerca, proprio mi chiami sull'argomento, e allora, questa è una ricerca che è stata fatta in Brasile, all'Università di Pelotas, in Brasile, pubblicata sulla rivista Lancet, che tu sai, la Bibbia delle riviste scientifiche. Ebbene, gli italiani, che sono i più longevi con i giapponesi, sono tra i più pigri in assoluto nel mondo. Niente sport, siamo italiani, si potrebbe dire, no? Parafrasando gli inglesi, che non fanno sesso perché sono inglesi, ma non ci credo che non faccia senso. Troppo pigro, uno su due non fa un tubo, capisci? Sì, questo sì, si vede effettivamente, però l'ho letta anch'io questa ricerca, ho letto il titolo, quindi non so i dettagli, ma dall'altra parte c'è la longevità, per cui... Ma non ti illudere, non crede, beh, allora me ne sto qui ancora più, no, in panciolle che tanto vivo. Diciamo, è un dato paradossale effettivamente che due tra gli stati al mondo più pigri come il Giappone e l'Italia poi siano anche più longevi, però fate movimento che fa bene. Meglio vivere qualche anno di meno, che non è detto che sia dovuto, ma in salute, in qualità di vita, eccetera, eccetera, che insomma le buttate come un sacco, Fabrizio, raccomando. Dice che ci supera in Europa soltanto Malta, Cipro, la Serbia dove cambiano però sesso, e il Regno Unito. Anche gli inglesi, facevano tanto gli sportivi ieri alla cerimonia, però pare che siano estremamente pigri anche loro. Ma c'è una notizia in realtà, Fabrizio Rondolino, che vorrei sottoporti più che questa, che è un vero scoop. E qual è? Diciamo, è legata a uno scoop. E quindi io vorrei che tu... Mi sto preparando, al momento che tu fischiettassi nel blu dipinto di blu. No, non sono in grado. Io sono più stonato di due campane. Non voglio allontanare i tuoi numerosi radioascoltatori. No, ma una cosa tipo, una cosa così. Una cosa tipo... Fai tu. Siete tutto il vento, vedi, nel microfono. Perfetto. Sai, più o meno, cioè, improvvisato davanti a milioni di ascoltatrici e ascoltatori, un po' l'emozione. Però in realtà da dove viene questo scoop, il problema? Perché pensavo a fischiettare dipinto di blu? Perché in un'intervista esclusiva su 7 del Corriere della Sera in questa settimana, Monti confessa che a quasi 70 anni lui non sa fischiare. Nel senso, dice, se io potessi, sapessi fischiare, fischierei sotto la doccia nel blu dipinto di blu. I miei sorrisi e i tuoi si sono spenti. Peter Bescapè è straordinario, guarda, per accompagnarmi in questa cosa. Vogliamo sentire un po', quasi, è proprio un imprevisto. Ci restano soltanto lunghi silenzi che vogliono dire addio. Addio, il nostro amore. È sempre Modugno, naturalmente. E lui è un po' più allegra, ma quanto è bravo e quanto è bello sempre Modugno da ascoltare. Quindi a me mi aveva sconvolto, devo dire. Io vorrei. Facciamo un appello insieme, Fabrizio Rondolino. Mario, prova. Io sapevo fischiare a 7 anni, anche meglio di così. Facevo certi fischi che facevo girare le giraffe. Quindi. È possibile che almeno sotto la doccia non si possa esercitare, secondo te, Mario Monti? Sì, quello effettivamente sì. Sono i fischi da tifoso, sono quelli più difficili. Ecco, li so fare anche lì. Quelli, ma adesso mi sembrerebbe un po' poco fine, diciamo, fare quelli. Però nel blu e blu sotto la doccia, con l'acqua che scroscia non ti sente nessuno. Provaci, Mario Monti, provaci. Sei un economista straordinario, sei il presidente del Consiglio e confessi. Sai un'altra cosa, te la dico dopo, un'altra cosa che ha detto che mi ha fatto un po'... 800 24 00 24, tra poco c'è Fede da Milano. Tu pensa anche, Fabrizio, a qual è la tua notizia della settimana, poi te ne butto lì un'infinità, e anche voi pensate, per esempio, anche a questa storia dell'Ilva. Sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni si sono scatenati con riflessioni ponderose, giuste, con anche posizioni diverse, le ascoltatrici e gli ascoltatori. Voi cosa ne pensate? Insomma, tra lo scegliere di lavorare e lo scegliere di morire, è possibile che bisogna scegliere in questa alternativa? Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Grazie alla parte tecnica Peter Bescapè, che, mentre mi sgomentavo, diciamo, per questa incapacità di Mario Monti di fischiettare nel blu dipinto di blu sotto la doccia, ci ho provato un po' io, ma lui poi ha messo il bravissimo e indimenticabile Modugno. Volevo poi svelare altre cose di questa intervista di 7 a Monti con Fabrizio Rondolino, opinionista estemporaneo di oggi, scrittore, giornalista. Tra l'altro tu hai anche un blog che si chiama The Front Page, è molto internazionale in questo, Fabrizio. Scusami, mi dicevi del blog? Tu mi ti distrai, scusa Fabrizio, stavi canticchiando, stavi fischiettando. No, tu hai The Front Page, sì, il tuo blog, front no? Page, sì. L'hai chiamato in modo molto americano, tu sei un po' internazionale. No, è un omaggio ai due, a Matteo e a Lemon, io lo faccio con un mio vecchio amico che si chiama Claudio Velardi, insieme facciamo questa cosa e anche per prenderci un po' in giro ci siamo paragonati ai due mostri del giornalismo di prima pagina. Sentiamo Fede da Milano all'800 24 0024. Fede, buongiorno. Federica, quindi saresti come la Pellegrini. Fede, cioè. Fede. Cioè ti hanno chiamata Fede? Fede come sì, la fede religiosa, insomma. Tu brava, fossi ispirata. Brava. Ed è un nome che tu ti senti bene addosso e dentro di te? Io ho cominciato a viverlo bene oltre i 30 anni. Aspetta, diciamo, ci ho messo un po', ma meglio tardi che mai, via Fede. Sì, però insomma, ora sembra anche di moda, sembra piacere, quindi... Come diminutivo in genere, no? Perché Fede così, tout court, mi pare di non averlo mai sentito. È molto originale, Fede, il tuo nome. Invece la tua opinione, la tua idea, la tua notizia di questa settimana qual è? Guarda, io sono sconcertata, veramente già di mio, prima di sentire questa questione dell'area C, ero... Di Milano, ero, no? Sì, di Milano, ero... guarda, se vuoi magari ci troviamo e te la racconto bene questa storia, adesso non voglio prenderti troppo tempo in davanti a un succo di mirtillo, magari ci possiamo provare, però una sintesi. La sintesi è questa: io da febbraio di quest'anno subisco l'occupazione di un ufficio mio in Viale Monza 61 da parte di un abusivo totale, uno che non c'entra niente, ha cambiato le serrature e mi ha buttato fuori, punto, facendo un'attività al pubblico di riscossione denaro. Lui fa un CAF, per cui ha fatto i 7.30, ha scritto chiaramente sulla vetrina che fa minori e di tutto, no? Scusa Fede, scusa se ti interrompo, ma con l'area C, quella del centro che era stato chiuso, cosa c'entra? Da una parte il comune è assolutamente inerte rispetto a questo personaggio, anche di fronte a una sentenza di un giudice, no? Il comune lo permette, cioè io devo stare fuori e questo abusivo stare dentro, addirittura è intervenuta la polizia e hanno fatto la multa a me e non a lui, ok? Dall'altra parte un privato può fare questa cosa al comune, ma insomma, ma questo comune... Ah, ho capito, metti in paragone le due cose, dici tu da cittadina. Abbiamo un avvocato di lunga storia come sindaco, io ho chiamato, ho chiamato i campioni di ping pong con la vita del cittadino che sono i dipendenti comunali, e se avessi registrato le telefonate... Pronto? Fede, c'era stato amico, l'avranno occupata, l'avranno... Che è successo? Comunque Fede, la salutiamo, Giorgio De Luca, i telefoni bollenti, Giorgio, se avessimo occasione di risentirla. Era chiara la sua argomentazione. Fabrizio Rondolino, a te pare possibile, pare giusto, per carità, poi ci sono tanti distinguo, ci possono essere tanti elementi che non conosciamo fino in fondo, ma che questo parcheggio privato al centro di Milano abbia fatto saltare l'area C per il momento... una sentenza della Consiglio di Stato. Sì, sono favorevole a questa sentenza, un po' di andare controcorrente. Perché tu sei un pigro, vuoi arrivare in macchina lì sotto il Duomo, praticamente. No, io difendo il diritto alla proprietà privata, che precede qualsiasi altro diritto. La proprietà privata è un'estensione della nostra persona, e quindi della nostra vita, e quindi della nostra libertà. Questo lo diceva John Locke, non lo dico io. E dunque un'opera pubblica, qualsiasi essa sia, non può, secondo me naturalmente, non può limitare i diritti proprietari. Ti faccio un esempio. Mettiamo che di fronte a casa mia buttino giù un palazzo vecchio, eccetera, e tirino su dell'edilizia pubblica, no? Eccetera. Se tutto ciò mi dà fastidio, mi crea polvere in casa, mi fa tremare il letto come il terremoto, eccetera, eccetera, io posso... No, se ti interrompo, non è polvere in casa, è il fallimento di un'impresa, cioè un parcheggiatore. E se io avessi un negozio che mi fa tutta la polvere, mi fa tremare e la gente non vuole entrare nel mio negozio e le bibite ballano? Le bibite ballano non credo che sia un criterio. Che vuol dire? E questo, dice, uno non vuol venire a bere nel mio bar perché dice ogni volta qui trema tutto, mentre bevo il mio whisky o il mio succo di frutta, qui mi trema il bicchiere, mi dà una sensazione di poca sicurezza. Il pubblico che fa tremare, non il privato, sono le metropolitane, i tram, no? No, questo ti dicevo, insomma, in tutto questo voglio dirti, Fabrizio Rondolino, che effettivamente ci sono i pro e i contro, si sono naturalmente spaccati in due a Milano, sì, no? Sì, certo, no, io stavo difendendo un principio, dopodiché nel merito penso che le città vadano in qualche modo pedonalizzate, ma naturalmente per pedonalizzarle devi anche appunto fare un sistema di parcheggi che abbiano prezzi ragionevoli. E a Milano non li hanno dei prezzi ragionevoli in centro, te lo assicuro, sì, quindi, per niente. Come sempre un problema, diciamo, più complesso e di sistema, però il principio che lo Stato non può mandare a ramengo un'attività privata soltanto perché ha deciso in altro modo, lo Stato, il pubblico eccetera, secondo me questo è un principio importante, cioè la proprietà privata come la vita e la libertà vanno difese. E a proposito anche dallo Stato, ecco, invece poi ritorniamo su Monti che dice delle cose troppo simpatiche in questa intervista, a proposito invece dell'Ilva posta sotto sequestro, dicevamo, no? Come si possono conciliare la salute dei cittadini, perché Taranto comunque si voglia pensare, sicuramente è cresciuta nel benessere, cioè nelle possibilità, nella capacità di acquisto, diciamo, dei cittadini con l'Ilva, a partire, se non sbaglio, da fine anni 60, inizio anni 70, però è una città completamente devastata nella salute, sono stati abbattuti migliaia di alberi, di ulivi, di mandorli, il mare era un mare pescosissimo, pieno anche di frutti di mare. Io, scusate, non consiglierei a nessuno di mangiare un solo frutto di mare che venga da Taranto, è pieno di diossina. Cioè, la gente può morire di cancro o avere patologie anche già ai bambini per poter avere lavoro. Come si può in qualche modo trovare una conciliazione? Poi mi chiedo, adesso l'Ilva, per carità, i proprietari, chi la gestisce, dice no, qui rischiamo di far saltare il lavoro per migliaia di persone, che diciamo che forse non è la loro primissima preoccupazione, è quella di perdere naturalmente del profitto, però non ci potevano pensare prima a mettere in regola? Si sapeva da anni che l'Ilva stava inquinando, Taranto ne stava facendo una delle città davvero più avvelenate d'Europa, questa cosa è risaputa. No, questa è di una gravità estrema e i rimedi ci sono, ci sarebbero, perché in tutto il mondo ci sono acciaierie e in generale ci sono impianti. Come fanno gli altri? Materiali che non uccidano le persone che vivono intorno. Però qui il problema è un altro, nel senso che, almeno secondo me, nessuno discute sulle responsabilità dell'Ilva, ma la scelta della procura di chiudere lo stabilimento, di sequestrare, quindi chiudere uno stabilimento prima di ogni processo, diciamo così, secondo me è una scelta a dir poco discutibile, perché un conto è chiedere le verifiche, combinare multe, imporre modifiche anche radicali, anche al termine di un inchiesta, di un dibattimento, anche chiudere una fabbrica. Un conto è chiudere una fabbrica come atto preliminare. In questo modo tu hai distrutto l'economia di una città e hai dato anche un segnale. Però mi sembra che già diverse volte si fossi tornati su questo argomento, e se leggo bene da questo approfondimento, nel 1997 viene siglata la prima intesa tra Regione e Ilva per il risanamento, ma senza limiti naturalmente di tempo né sanzioni. È chiaro che finché dici fai al lupo. Ma questa è l'Italia. Allora bisogna che gli accordi vengano rispettati. Allora bisogna che la Regione Puglia sia responsabile, che il management dell'Ilva sia chiamato a rispondere delle mancanze. Infatti ci sono stati degli arresti già, ci sono stati già 8 arresti. Ma chiudere la fabbrica preventivamente è un atto di terrorismo giudiziario, non è un atto di giustizia. La giustizia è una cosa diversa, la giustizia è sento le opinioni dell'uno e dell'altro e poi dopo vedo che cosa succede. Voglio dire, il messaggio che si dà a chi mai volesse ancora investire in Italia, e sono rimasti in 3 credo, perché nessuno è così matto, ma quei 3 rimasti scapperanno anche loro, perché se un giudice può, senza chiedere permesso a nessuno, senza sentire nessuno, chiudere uno stabilimento, beh, vuol dire che in Italia non c'è nessun tipo di libertà di impresa. Scusa Fabrizio, ma la libertà d'impresa non è libertà di ammazzare, però, su questo spero sarai d'accordo. Me lo dovete dimostrare. Come me lo dovete dimostrare? Ci sono ricerche di anni. Ma allora ci sarà un processo. Adesso è stata aperta un'inchiesta, diciamo così, no? Che sono state fatte degli arresti, appunto, ci sarà un processo, ci saranno delle conclusioni. Io questo dico, la chiusura della fabbrica è l'atto estremo che si fa alla fine, non all'inizio di un'indagine. È una specie di supercarcerazione preventiva, che è l'altro viziaccio della magistratura italiana, no? Appena un sospetto ti prendo, ti butto in galera e aspetto che tu mi parli. Diciamo, è più di un sospetto in questo caso, su altri casi sono d'accordo, individuali, eccetera. Ho capito, Roberta, può anche essere una certezza, ma ripeto, è un atto estremo chiudere una fabbrica. Infatti quella città lì è in uno stato di guerra civile, perché giustamente, purtroppo, e poi dopo di fronte alla scelta estrema, il lavoro salute. Ho la salute e la gente, ahimè, sceglie il lavoro, perché non è che poi questi giudici offrono altre opportunità o danno la paghetta agli operai. Questi giudici hanno fatto il bel gesto, come sempre fanno, sono andati sulle prime pagine di tutti i giornali, dopodiché degli operai dell'Ilva se ne interessano bellamente. Comunque la vedrei più complessa, ma fermiamoci un attimo, Fabrizio Rondolino. Poi vorrei veramente sentire le opinioni di ascoltatrici e ascoltatori, se riesco. Leggo anche, che me le sono già lette, le opinioni su Facebook, in buona parte le ho già lette, di Non ci sono più le mezze stagioni. Poi c'è Fabio da Roma, ma c'è Vitalba, anche lei dalla capitale, 800 24 00 24, ma mi sembra che Peter Bescapè abbia già instaurato il collegamento con un altro pianeta, mi sembra di ce l'abbiamo fatta, sì. Riflessioni da Marte. Puntando il telescopio, come sempre, da quassù, da Marte, su un punto preciso del globo terracqueo, la penisola italica, guarda caso, c'è un via vai di euro che nelle sue imperscrutabili traiettorie disegna un po' un mondo alla rovescia, pardon, una penisola alla rovescia. E poi dicono che i marziani sono quelli che vivono qui, su Marte. Non pensare ai soldi, diceva il vecchio saggio, i soldi vanno e vengono. Sì, ma bisogna vedere dove vanno e dove vengono questi soldi. A parte la Spending Review, che, scusate, ma è più forte di me, mi evoca sempre Parlami d'amore, Mariù, Spending Review, e a parte le vacanze a propria insaputa su yacht transatlantici, dove vengono e da dove se ne vanno i dobloni italici? Facciamo qualche esempio di queste paradossali traiettorie. La crisi azzanna, mancano i soldi, ma il merito in un paese notoriamente meritocratico va riconosciuto. E così la regione Molise, in tempi di vacche magre e di pecore scheletriche, premia tutti i propri 68 dirigenti, la regione Molise, con 800.546,57 euro. Da dividersi tra i fantastici 68. Tra questi un bonus, naturalmente, va anche a Elvio Carugno. Peccato che il suddetto dirigente sia in galera con l'accusa di aver rubato soldi regionali. Secondo voi questa gratifica che arriva a Carugno gli viene data per confortarlo del suo attuale stato disagevole o per far prevalere via la logica del perdono in stile chi ha avuto, avuto, avuto, chi ha dato, dato, dato, scurdammo ciò passato? Com'è misteriosa la vita, però. Per qualcuno, tuttavia, non vale una cicca. Vedi il giovine operaio che morì montando il palco di una nota cantante. L'INAIL riconosce alla famiglia del giovane una congrua cifra, 1.936 euro. La logica forse è meglio dare un lauto bonus a un vivo che in galera piuttosto che un risarcimento equo per chi è in una tomba. Bah, vai a sapere. Ma c'è chi proprio non ci sta all'iniquità, anche se sembra che viva fuori dal mondo, le suore di clausura. Ebbene sì, le domenicane di un convento di Bergamo, non potendo uscire per statuto, hanno tuttavia chiesto e ottenuto dal comune la visita di un funzionario che ha raccolto le loro adesioni al referendum per abbassare da 16.000 euro a 3.500 euro le indennità dei parlamentari. Pensate, le suore di clausura. In questo via vai, togli e dai, alza e abbassa di euri, si aggiunge la vicenda della dolce signora Tempata, che in un parchetto giochi vicino Pavia voleva aiutare un bambino, facendo da contrappeso, ad andare su e giù. Sapete, su quelle altalene a tronco, dove uno si siede a un estremo, l'altro dall'altro? Bene, i vigili l'hanno multata di 100 euro, che magari era un quinto della sua pensione, o alla peggio era un'esodata. Ma io volevo fare solo da contrappeso, ha spiegato la signora. Faccia da contrappeso sarà lei, deve aver risposto arguto un vigile. E per la multa, niente da fare. La signora era troppo grande per giocare. Io vado in altalena. torniamo subito con i piedi per terra, per carità. Ci sono Fabio da Roma, Vitalba da Roma, Francesco, tutti da Roma. Che è successo, capitano? Si è scatenato 800 24 00 24. Dunque, Fabio da Roma, scusami, Fabio da Roma, stai parlando di Green Hill, prego. Sì, ma niente, mi sono informato da poco, perché in effetti per impegni ho avuto poco tempo per seguire l'attualità. Da quel poco che mi è risultato, in realtà non sto parlando proprio di questa della trasmissione, ma in generale si è fatta un po' informazione leggera, non voglio dire malinformazione, perché non è proprio il caso. Su Green Hill. Informazione leggera. Perché? Perché, per come la vedo io, ovviamente, secondo me... Innanzitutto si è parlato poco del fatto che dell'assalto che c'è stato, che secondo me andrebbe condannato. Io non sento molto dire: ah, è vero, ci sono i cani maltrattati, però l'assalto non andava fatto. Sento sempre della distribuzione di questi cagnolini che sono stati, sì, per quanto, cioè, non riesco a capacitarmi del fatto di come un atto così violento possa passare in secondo Fabio, ascolta. Sì, non ho capito cosa vuoi dire, e sono appunto azioni illegali che quindi andrebbero evitate. A volte è vero, detto solo tra noi, tra me e te, che con queste cose forse si porta un po' più al centro dell'attenzione l'argomento, ma comunque sono illegali, non si fanno. Ma tu come te li spieghi? 100 beagle surgelati nei congelatori della Green Hill? Guardi, io non sono un esperto. Li avrebbero mangiati qualche giorno dopo? Il fatto è questo, è che non voglio entrare in merito come sono morti, perché... Bah, probabilmente secondo me non di crepacuore, dice, non di infarto. No, vabbè, quello ok, però il fatto che sono stati trovati così tante per ammortizzare i costi. Ah. Come lei ben sa, il E ti sembra una buona cosa questa, Fabio? No, aspetta, lasci finire, non sto dicendo per ammortizzare i costi. Come lei ben sa, quei cani sono geneticamente modificati e costano tantissimo. Alcuni per qualsiasi motivo viene a mancare, muore. Per qualche motivo viene a mancare, così improvvisamente. Per qualche motivo. Un insetto che lo punge, 100 uno dopo l'altro. Per ammortizzare almeno i costi tra virgolette, smaltimento, io non sto parlando di che siano rifiuti, ma per il trasporto in una locazione dove possano essere seppelliti o comunque vengono stipati in questi congelatori, che altrimenti si decomporrebbero se non altrimenti. Per lo meno questa qui è la spiegazione che mi hanno fornito. Chi te l'ha fornita? Chi te l'ha fornita, Fabio? La fonte non me la ricordo, sinceramente, perché non è che sono stato concentrato su questa vicenda. Fabio, ti volevo informare di una cosa, scusami. Sono tutto orecchio. Tu lo sai che anche i figli costano, Che facciamo? Li congeliamo ogni tanto? Congeliamo qualche figlio? No. Ah, ecco. No. Così era una domanda. Però io... pure su questa vicenda, quello lì è stato definito un canine lager. Io non credo che sia una definizione giusta, ma perché d'altronde quel canile vengono allevati dei cani per la sperimentazione e quindi devono essere il più sani possibili per evidenziare. Beh, ma se gli dai qualche pedata o se li quella dovrebbero essere le perizie. No, Fabio, ma infatti lasciamo che le indagini, l'inchiesta vada avanti e giunga a compimento, però diciamo che qualche elemento così di dubbio sull'amore che potevano nutrire per questi cani c'è, diciamo, 100 cani congelati, uno che è morto dopo l'altro. Poi sono cani che non sanno neanche cosa sia la vecchiaia, quindi morire così in tanti mi sembra una cosa un po' curiosa. Fabio, ti ringrazio. C'è Vitalba da Roma. Buongiorno. Sempre all'800 24 00 24. Buongiorno, Vitalba, scusa. Buongiorno. Allora, devo dire che l'intervento di Fabrizio Rondolino sull'Ilva di Taranto praticamente ha bruciato i 2/3 del mio, perché Caspita. Concordo. Sì, pienamente. Devo dire che concordo assolutamente con lui e quindi diciamo su questo uso che reputo sconsiderato del potere dei giudici. Allora io sono di origine tarantina, nel senso che non sono nata a Taranto, ma i miei genitori, i miei parenti sono di Taranto e da che io ne abbia memoria, tutte le volte che si andava a Taranto per le feste comandate e si era in prossimità della città, diciamo a 20-30 chilometri, sì, c'era questa cappa rossa sulla città del vecchio Italsider, quindi diciamo che è una storia risalente nel tempo. Certo, l'Italsider che poi è diventata Ilva, insomma, no? Ilva, ecco, chiaramente io anche per questo ho continuato a seguire le vicende di questa città a cui sono affettivamente legata. Da ultimo, soprattutto per quello che ho letto negli ultimi giorni, c'era stata comunque da parte della dirigenza della Riva, proprio diciamo sulla scia di quelle che erano state le determinazioni negli anni di una riqualificazione, quindi riconduzione nei limiti, comunque c'era stato un ridimensionamento delle emissioni nocive. Addirittura io ho visto circolare un documento in rete al quale non so se posso prestare attendibilità, circa il fatto che da ultimo erano quasi nella norma queste emissioni. Chiaramente adesso sta scontando l'inquinamento di decenni. Ora, il fatto che la magistratura intervenga adesso con un atto di urgenza per chiudere un qualcosa e quindi evitare dei danni che di fatto negli ultimi decenni si sono prodotti, non negli ultimi sei mesi, la trovo una cosa quantomeno intempestiva. Peraltro, quello che ancora di più di quest'opera della magistratura mi ha lasciata perplessa è stata questo rimarcare la logica del profitto. Ora, io per definizione codicistica non c'è un imprenditore che apra un'impresa con lo stesso spirito di una ONG. Certo, cioè, non per beneficenza, questo è chiaro. Voglio dire, l'impresa si apre per fare profitto, quindi adesso non andiamo a demonizzare la logica del profitto, perché no, ma questa non si demonizza, è vero che l'ha scritto la GIP nell'ordinanza, per sottolineare che insomma si sono per niente occupati in tutti questi anni di salvaguardare anche la salute dei cittadini. Vitalba, io ti ringrazio e ti leggo in diretta questa agenzia di pochi istanti fa, sempre a proposito dell'Ilva. I magistrati di Taranto hanno fatto il loro dovere e non avevano alternative. La commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico di rifiuti ha potuto constatare direttamente la drammaticità della situazione dell'Ilva, che da un lato dà lavoro a un'intera città ma nello stesso tempo ne avvelena la vita. La perizia epidemiologica ha dimostrato che l'allarme espresso dalla commissione più di un anno fa era assolutamente fondato, e a dirlo è Gaetano Pecorella, PDL, che è presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo di rifiuti. Dice: se fu trovata la diossina nel latte degli animali, non poteva non arrivare anche nel cibo, nei polmoni degli uomini. I magistrati, continua Pecorella, hanno dovuto interrompere il perpetuarsi di un reato che si ripeteva giorno per giorno perché così vuole la legge. Poi va avanti, diventa lunga. Che pensi, Fabrizio Rondolino? Pecorella o su, no, perché sull'Ilva no, non sul personaggio Pecorella, ma su questo opinione, che no, la mia opinione grosso modo è quella che no, hai detto prima, l'ho già espressa. No, sui Beagle invece, se posso dire una cosa, che è un certo tema, volentieri. Tu hai dei cani, mi sembra, tra l'altro. No, io ho un cane e quattro gatti. Ecco, sono amo tutti, sì, anche i gatti bellissimi, tutti adottati, diciamo così, cioè insomma trovatelli. E no, perché qui secondo me c'è un punto di principio, direi morale, forse persino filosofico, e cioè che cosa sono gli animali, perché Cartesio e con lui molti di noi pensano che gli animali siano, diciamo così, delle macchine, senza, no? Cioè senza abbiano, coscienza, senza anima, che non abbiano la coscienza, non abbiano l'anima, eccetera eccetera, e mentre invece non è così, cioè perlomeno per quanto riguarda i mammiferi la scienza su questo è arrivata a conclusioni abbastanza univoche. Cioè i mammiferi, figuriamoci i cani che vivono con noi da almeno 20.000 anni, forse anche di più, i mammiferi hanno emozioni, hanno coscienza, hanno sentimenti, sofferenza, hanno affetti, e quindi naturalmente hanno sofferenza. L'unica cosa che non hanno rispetto a noi è la capacità, diciamo, di reagire, di dare l'assenso o il dissenso, o meglio, lo danno, perché chiunque abbia mai visto un animale sa benissimo se questo animale è d'accordo o no, diciamo così, ma siccome non fanno casino, non hanno sindacati, non ci sono neanche le procure che si occupano di loro. E non hanno dei Kalashnikov, diciamo. Non hanno dei Kalashnikov. Allora, se però si accetta il principio che noi e loro siamo la stessa cosa, cioè siamo tutti animali con le nostre emozioni, le nostre sofferenze, le nostre felicità, e allora la questione della sperimentazione scientifica va cambiata in modo radicale. Paradossalmente andrebbe rovesciata: soltanto su umani consenzienti si dovrebbe poter fare la vivisezione, perché io posso decidere, ed è un paradosso naturalmente, ma posso decidere che per lasciare la mia famiglia un lascito, per consentire alla mia famiglia di vivere serenamente, mi sacrifico e entro in un programma di ricerca e di sperimentazione scientifica, sono maggiorenne e ho una, e posso esprimere il mio consenso. Beh, diciamo che qualcosa del genere succede, non cose cruente, sono solo persone consenzienti. Sì, ci sono quelli che sperimentano i farmaci, in cliniche in Svizzera, mi pare, pagano abbastanza bene, qualcuno esatto, si sottopone. Esatto, quella roba lì si può fare, perché appunto io sono cosciente e decido, mentre invece è obbligare un animale sarebbe come farlo con un bambino o con un down. È un lungo argomento, però almeno su Green Hill speriamo che si faccia chiarezza in questo momento. Prima di sentire ancora le ascoltatrici e gli ascoltatori, il numero verde è 800 24 00 24. Fabrizio Rondolino, ti volevo sottoporre delle frasi, tu però sì, proprio lapidario, telegrafico, bravo, come preferisci tu, telegrafico, davvero. Insomma, allora, Bossi, attenzione, Bossi in questi giorni ha detto, te ne cito qualcuna: il prima possibile il governo vada fuori dalle balle, una. Poi ha detto ieri sera, ha detto: 2 settimane fa in Svizzera ho firmato un accordo tra Lombardia, Piemonte, Veneto, la Svizzera, le regioni austriache, la Francia del Sud e la Slovenia per la costruzione di una euroregione padana alpina. Poi ancora ha detto: ho visto diversi tricolori fuori dalle case, è una vergogna per tutto il nord perché rappresenta il centralismo romano. Secondo te Bossi parla a sua insaputa o cosa? Bossi è stato un grande e adesso non lo è più, e allora bisognerebbe non occuparsene più. Bossi non c'è più. Vabbè, allora invece c'è qualcuno adesso, mi sembra, sì, eccolo che sta arrivando, è proprio lui, e lui da Potenza, Don Severino. Caro Don Severino, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. dici che cosa questa settimana. Tra le tante notizie, diciamo, tristi, eccetera, ho scelto, ecco, quello del registro civile di Milano. No? Ah, bene, sì, l'Unione Civile. No, per un motivo, perché in Italia è buffo che si debba essere contenti per una cosa normale, no? Ed è importante che sia Milano come comune, perché come faro potrebbe essere motivo anche di svegliare gli altri. Però, ecco, il mio intervento è una richiesta a tutti i profeti di sventura, cominciando da quelli come me, nel senso preti o super credenti, va bene, no? Ecco, anziché fare tanti anatemi su questa problematica, portino dati alla mano dove nei paesi in cui addirittura ci sono i matrimoni gay, se è fallita la famiglia, se sono diminuiti le nascite, se sono diventati tutto omosessuali. Dati alla mano, perché basta con le menzogne, va bene, raccontate. E in più vorrei ricordare agli etero veri che si devono mettere in testa una cosa, che se non ci fossero gli etero o la famiglia, gli omosessuali da dove verrebbero fuori? Per cui è importante che ci sia il matrimonio, e il matrimonio anche eterosessuale, se no i gay dove vengono fuori? Per cui il problema non è dei gay, è degli etero. Grazie Don Severino, questo è Don Severino, è così. E adesso brevemente vorrei sentire Augusto della provincia di Firenze, se può essere sintetico. Augusto, che quando siamo verso la fine io comincio a avere l'ansia. Augusto. Benissimo. Sì. Buongiorno. Buongiorno Augusto. E io personalmente ritengo che Rondolino non abbia, ci sono di opinione diversa, nel senso che se pensiamo a quello che è successo con l'amianto, che pur sapendo nel tempo che c'era il rischio di inquinamento, di malattie tumorali eccetera, siamo andati avanti proprio anche per ragioni di lavoro, giustamente nel Monferrato e non solo, in varie parti d'Italia, parte le debite proporzioni qui all'Ilva potrebbe essere in piccolo una cosa analoga. Dobbiamo essere grati a questi giudici che hanno messo di fronte alle proprie responsabilità la ditta, i lavoratori e tutta la cittadinanza. Grazie Augusto, sei stato chiarissimo e sintetico. Grazie mille Augusto. E leggerei velocissimamente dalla pagina Facebook Massimo di Non ci sono più le mezze stagioni. Massimo che dice: sempre facile a proposito di IVA dire la cosa giusta quando le conseguenze non si pagano sulla propria pelle, però in questo caso credo sia meglio essere disoccupati che a rischio di una malattia tremenda. Stefano: oggi una signora in un'intervista al TG ha detto si può scegliere se morire di fame oppure no, magari trasferendosi in un'altra città, mentre non si può in nessun modo scegliere se morire di cancro o no. E anche questa l'avevo sentita effettivamente. Gianni: di fame in Italia non si muore, di cancro si muore troppo spesso grazie a realtà come l'ILVA, il Tirreno Power di Vado Ligure. Giulia: povere persone, non vorrei essere al loro posto, la salute e il lavoro. Certo, noi qui in provincia di Bologna stiamo bene, è stato autorizzato l'aumento di pressione nelle cavità sotterranee di stivaggio metano, quello che può succedere lo hanno previsto con modelli matematici, vediamo se la terra è d'accordo. Rosanna: oh mamma mia, come si fa a scegliere di morire di cancro pur di avere un lavoro? No, un piatto di cibo si rimedia mentre il cancro ti si porta via. Giordano scrive: il fatto mica tanto strano è che nessuno si assume le proprie responsabilità, chi fa danni deve pagare senza se e senza ma. Floriano: il lavoro è molto importante, solo chi non ce l'ha può capire, secondo me ciò non esclude che si possa rendere anche queste fabbriche più sicure per l'ambiente, speriamo, c'è già uno stanziamento dello Stato, mi pare di oltre 300 milioni. Morena dice: non c'è soluzione, molto pessimista. Rosi: se hai la salute puoi lavorare, ma se la malattia ti attacca non servono soldi, non servono parole. Poi Mimmo voleva chiedere di invitare in massa a parlare i tarantini, qualcuno l'ha fatto. E Enrica dice: da quando esiste l'ILVA solo adesso ci si accorge di questa sconvolgente situazione, di chi è la responsabilità? Di nessuno naturalmente. Leonardo scrive: non si dovrebbe morire né di fame né di tumore, la sfida di oggi è produrre in maniera sostenibile. Ha detto facile, caro. Valeria della Valle, direi di sentire un po' invece lei in questo momento. Cara Valeria, della sociologa, sociolinguista della Sapienza di Roma, scusami Valeria, a proposito del termine Olimpiadi, ti interpellerei questa settimana. Beh, sì, Olimpiadi naturalmente di grandissima attualità, tutti ricordiamo che la parola viene dal nome della città di Olimpia, la città sacra nella quale si celebravano anticamente le feste e le gare, ma mi vorrei soffermare e anche dare un consiglio utile a tutti quelli che ci ascoltano su due aggettivi che hanno a che fare con l'Olimpiadi, e cioè olimpico e olimpionico, che proprio in questi giorni vi capita di ascoltare usati male. Allora, olimpico può essere riferito sia al Monte Olimpo che agli dei che lo abitavano, oppure alla loro imperturbabilità olimpica, oppure con riferimento alle Olimpiadi moderne, quindi la fiaccola olimpica e i giochi olimpici, mentre olimpionico significa solo vittorioso in Olimpia, quindi dovrebbe essere usato, deve essere usato a rigore solo per indicare i vincitori o le vincitrici nelle gare, no? I campioni olimpionici, una molto olimpionica. Bene. Ecco, insomma, lo sappiamo che l'importante non è vincere ma partecipare, ma commento finale, soprattutto usare bene le parole della lingua italiana. Grazie Valeria della Valle. Grazie. Naturalmente stiamo partecipando in tanti, e mentre abbiamo questo 45 minuti alla chiusura, caro Fabrizio Rondolino, volevo dire questa frase di Desmond Tutu, l'arcivescovo anglicano sudafricano, premio Nobel per la pace, che ha detto a proposito di gay: Dio vi ama come siete. Mi piace molto questa frase detta così. E poi volevo chiudere con Monti, sempre questa intervista di Sette. Senti, sai che cosa dice? Che il suo incubo è arrivare tardi all'università per via degli scioperi, forse per questo che ha dei rapporti un po' conflittuali, diciamo, con i sindacati. Ma sai qual è stata la notte più bella della sua vita? Attenzione, questo è vietato ai meno di 18 anni, eh? Sei pronto, Fabrizio? La notte più bella della sua vita è stata quello che ha passato 12 anni tenendo nella mia camera da letto la Coppa del Mondo di Formula 1 vinta da Fangio, che era amico di suo padre. Io fossi in sua moglie, diciamo, qualche matterellata gliela darei. Però che pensi, Fabrizio? Come ci saluti proprio in questi 22 secondi? No, vi saluto augurandovi un ottimo fine settimana, migliore del mio, visto che appunto sono malandato, come hai detto. Campione di pigrizia, il nostro Fabrizio, mi raccomando. Campione di pigrizia, e teniamoci Monti per un altro po', e che Dio ce la mandi buona. Ce la mandi buona, grazie Fabrizio Rondolino. Potete riascoltare la trasmissione su radio24.it o sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.